magari fu così. Ma risuccede ancora noi due qui. Ti amo, ai ai ai ai ai ai ai, ci risiamo, ai ai ai ai ai ai ai. Non finisce, ne muoio già nel tuo mare che viene e va. E mi spoglio, ai ai ai ai ai ai ai, è uno sbaglio, ai ai ai ai ai ai ai, ma ti voglio, ai ai ai ai ai ai ai, e rinasco, ai ai. Come foglie cadono su di me.